emerge una caratteristica di fondo abbastanza strutturale appunto del legame tra scuola e lavoro, ovvero le scuole, diciamo, migliori secondo appunto i rapporti istituzionali come quello della Fondazione Agnelli ci dicono che quei licei, che poi sono i licei del centro, i licei appunto dei frequentati da studenti di estrazione socio-economica abbastanza elevata, sono gli stessi che permettono appunto di raggiungere le carriere lavorative anche in ingresso migliori. Questo quindi ci parla della grande diseguaglianza che viene a crearsi fin dalla, diciamo, dalle scuole superiori, perché sappiamo benissimo appunto che i licei come il Tasso, il Magnani, il Virgilio di Roma, ma anche il quello, diciamo, privato paritario di Lambrate a Milano non sono accessibili a tutti, ma ovvero dovrebbero essere, potrebbero esserlo dal punto di vista formale, ma non lo sono dal punto di vista sostanziale. Sono frequentati appunto da studenti le cui famiglie di provenienza sono già appunto benestanti, potremmo dire quella borghesia che ha accesso a lavori e a tenori di vita e condizioni economico-sociali che poi si in qualche modo riproducono nelle reti, appunto le relazioni sociali, familiari e di amicizia ben più elevate, e di conseguenza diventano anche quei licei che danno accesso a dei lavori migliori o ancora retribuiti, perché poi sappiamo benissimo che il lavoro in Italia in qualche modo, diciamo, prende una china abbastanza deflattiva con i lavori gratuiti, il precariato, diciamo, abbastanza trasversale. Quello che però si nota appunto è la grande diseguaglianza che emerge fin, diciamo, dal superiore, no? Dalle scuole superiori, e che appunto l'accesso all'università di coloro che frequentano gli istituti tecnico-professionali si riducono. Secondo altri rapporti, in realtà quello che è successo durante la crisi è che gli studenti provenienti dai licei aumentano le iscrizioni all'università di circa il 4%, mentre coloro che frequentano gli studi tecnico-professionali vedono una riduzione del 38% appunto di studenti che poi vanno all'università. E spesso, anche come sottolinea Gavosso nel rapporto appunto di cui stiamo parlando, è una questione economica. Una questione economica perché appunto i genitori non riescono più in qualche modo a sostenere le spese, un forte aumento dell'università, ma soprattutto appunto delle migrazioni interne verso l'università e quindi fuori sede, che dal sud si spostano al nord, ma anche appunto dal centro si spostano, diciamo, nelle città dove c'è un'offerta universitaria maggiore o di maggiore qualità. Questo perché? Perché appunto il diritto allo studio in Italia è come se non esistesse. Ecco, proprio sul tema delle diseguaglianze, oltre a quelle legate alla fascia economica, io ho scaricato un rapporto dell'Istat che in realtà è riferito al 2011, basato su serie storiche, però proprio tra la differenza tra iscrizione a istituti tecnici o a licei, c'è anche una fortissima differenza basata sul titolo di studio del padre e della madre. Ora, che sia il padre la madre cambia pochissimo nei grafici, però per dire nei figli di padri o madri che sono arrivati alla licenza media quasi il 40% si iscrive a istituti tecnici, mentre i figli di laureati sono poco più del 10% iscriversi a istituti tecnici e quasi il 70% iscriversi al liceo. Quindi in realtà oltre alla componente economica c'è anche una componente più culturale in qualche modo. Ma in realtà appunto la componente culturale, i livelli di istruzione di cui stiamo parlando sono fortemente legati alla situazione economica di partenza, cioè è un circolo vizioso, cioè un po' quello che una volta si sarebbe detto rivendicando il contrario, ovvero molta più mobilità sociale, no? Se mi raccontesse anche l'operaio con il figlio dottore. Questo significa appunto la possibilità per chi viene da una famiglia con un livello di istruzione inferiore e di conseguenza anche economicamente, reddituale inferiore, di poter accedere con parità di opportunità, di dignità e diritti a percorsi di studio terziari di qualità. Questo però significherebbe un investimento molto più forte nel diritto allo studio e quindi le borse di studio, la possibilità appunto di ottenere affitti calmierati ed equo canone o prezzi proprio politici o addirittura, come avviene in altri paesi d'Europa, un investimento forte in quello che è l'edilizia popolare e pubblica per gli studenti, cosa che in Italia non esiste. Ecco, tu parlavi prima anche del fatto delle scuole paritarie. Una scuola paritaria di Milano è entrata nelle liste d'eccellenza e sono moltissime anche le università private, parlando di altre top ten famose che entrano nelle appunto liste di eccellenza. Influisce in qualche modo anche il fatto che questi licei e università siano di origine privata e quindi spesso anche legata ad aziende, poi il fatto di reimmettere i diplomati o laureati nel percorso del lavoro? Ma influisce ovviamente in larga misura, in larga scala, nel momento in cui le università private hanno da un lato i finanziamenti proprio privati, quindi sono solitamente università con diciamo finanze ben più cospicue e delle reti appunto maggiori, perché appunto il finanziamento da parte privata dell'università significa anche dirottarne e indirizzarne il tipo di formazione funzionale proprio a sviluppare quelle competenze che possono essere riutilizzate in quel tipo di azienda. Quindi diciamo il legame è relazionale, è delle fonti di finanziamento che però appunto in qualche modo privano l'università di quel carattere libero e universale, perché appunto un certo tipo d'azienda ha bisogno, cioè se finanzia una cosa la finanzia ovviamente per un ritorno, e il ritorno quasi sempre è lo sviluppo di competenze che siano funzionali a quel tipo di mercato, a quel tipo appunto di profili professionali a cui si ambisce. Noi invece una cultura e un sapere molto più critico, più libero, che poi appunto può essere parimenti in realtà utilizzato nel mondo del lavoro, solo che le aziende, come sappiamo benissimo, non ambiscono ad assumere giovani che abbiano una cultura e un sapere vasto, critico, ma quelli che invece escono abbastanza disciplinati sia nel sapere che appunto nei comportamenti. Ecco, sì, proprio su questo tema, infatti, anche Gavosto, il direttore della fondazione che ha fatto la ricerca, parlava del boom di visite che c'è stato proprio sulla raccolta di dati, no? Che lui giustificava perché dice: è normale che nel passaggio dalle medie alle scuole superiori, che è così delicato, i genitori vogliano delle notizie certe. È anche il segno di un cambiamento nel modo in cui si guarda all'istruzione, forse? Ma secondo me in realtà no, perché un conto è l'orientamento e quante informazioni possono avere i genitori. Il problema appunto è che poi ragazzi di estrazione, come dicevo prima, di background socio-economici diversi, frequentare licei no prestigiosi eccetera, si trova proprio uno spaccato diverso proprio nel tipo di ambienti, nel tipo di socialità, nel tipo di frequentazioni, perché poi appunto non è in qualche modo, no, appunto la socialità non si ferma nelle aule, ma come sappiamo benissimo si estrinseca poi quello che è un po' l'ambiente sociale di riferimento, quindi tutte quelle attività che se vuoi, se vieni da una periferia e non hai soldi per fare l'abbonamento a teatro o per appunto sviluppare tutte quelle altre diciamo reti di conoscenza eccetera, a quel punto sei davvero un frustrato e soprattutto vieni additato come tale all'interno di quel tipo di ambienti. Quindi in realtà sì, l'informazione va benissimo, di che noi vorremmo invece proprio la possibilità, il diritto sostanziale a frequentare quel tipo di scuole, soprattutto cominciare a dire che gli insegnanti appunto e le possibilità degli insegnanti di esprimere una didattica che sia abbastanza diciamo profonda, proficua e efficace per gli studenti devono averne l'opportunità in tutti i tipi di licei, in tutti i tipi di istituti tecnici professionali. Questo significa anche investimento da parte dello Stato nelle scuole di periferia, non soltanto in quelle del centro, perché tanto quelle del centro poi c'è in qualche modo una congestione numerica, non è che possono esplodere in un certo senso anche se si dà l'accesso. Quello che noi invece diciamo è che quel tipo di licei, con quel tipo di reti, con quel tipo di finanziamenti, investimenti e disponibilità deve essere esteso a tutta la penisola, dal centro alla periferia, anche all'interno delle stesse città.